questo sono io e mi sento mal di mare. Ciao, ciao a tutti, benvenuti a The Other Side of the Coin. Il rovescio della medaglia. Prog inglese e titolo inglese. Allora, benvenuti alla 19ª puntata, vero? Siamo un inizio scoppiettante. Sì, con i Dick Dick senza luce, che un po' fa ricordare, ci pensavo proprio ora, Prog 5 quarti, che fa ricordare un po' i 100 passi, sì, quando alla radio il tipo mise però la versione originale dei Procolarum, perché presenteremo i Procolarum, e mise Whiter Shade of Pale, quando mi sa, credo già avevano ammazzato Peppino Impastato, vero? Sì, sì. Quindi il giorno che schiantiamo, se per favore ci mettete anche a noi. La versione originale, però, ve ne prego. No, pure mixata. Ecco, il Prog 5 quarti non ha condiviso la mia sigla. No, ma ci sta. Le nostre cover italiane degli anni 60-70 le abbiamo già proposte un po', no? Sì, infatti questa è un po' fuori dalla progressive, però era simpatica. E nulla, diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori, da lontano, da vicino, dal mare. Dalla montagna, dalla montagna, ancora le temperature da notturne. Rosignano Solvay, insomma, sì. Dal Monte Bianco, insomma, via. E allora, oggi andiamo a presentare, io ho dimenticato tutto nel frattempo. No, andiamo a presentare quest'oggi. Molti gruppi. Scusiamoci, anche approfittiamo per scusarci dell'assenza di martedì scorso. Sì, è stata un'assenza improvvisa. Improvvisa, non perché sappiamo nemmeno noi perché, ma non siamo andati in onda martedì scorso. No, in effetti, diciamo, in effetti è l'effetto del Jobs Act, che la direzione di Radio Wombat ci ha lasciato a casa per una settimana. E grazie al Jobs Act ci hanno riassunto oggi, martedì. Il Job Act toglie e dà, come... Sì, come quando ero piccino e facevo un danno e mia madre mi diceva: come ti ho creato così ti distruggo. Ecco. Un po' il riassunto. Sì, tipo sì. Tesi, antitesi e... Sì, come nostro signore, no? Che dà e toglie a suo piacimento. Benissimo, cominciamo bene. Allora, no, lascio presentare a te Prog 5 quarti, perché il primo gruppo è tuo. Sì, è mio, proprio me lo sento mio. Inside. Cerchiamo di dire un sacco di termini di in inglese. Termini in inglese, sì. Magari con una pronuncia un po' che vagamente ricordi l'inglese, però... Proto, ci proviamo. Proto maccheronico. Sì, pseudo inglese. Tardo inglese. Ok. Allora, partiamo subito con il primo gruppo, che sono i Matching Mall. E il nome vi ricorderà qualcosa, perché è un po' una traslitterazione dal francese di Machine Mall, che è tradotto Machine... Com'è la versione francese? Non ci sono le R, quindi non posso nemmeno fare la R francese. Machine Mall. Che tradotto letteralmente significa macchina molle, che vi ricorderà di sicuro il termine inglese soft machine, che non andremo a presentare, però li ricordiamo. Perché li ricordiamo? Perché i Matching Mall sono appunto un gruppo inglese di rock progressivo fondato da Robert Wyatt, che è anche il fondatore appunto dei Soft Machine. Dopo aver lasciato quest'ultimo gruppo, fonda i Matching Mall. E anche musicalmente un po' si rifanno alle sonorità dei Soft Machine, quindi con diciamo molte caratteristiche della musica jazz, della musica fusion, e che lascia infatti molto spazio sia nel Soft Machine che nel successivo gruppo anche all'improvvisazione di tipo jazzistico, no? Prog 5 quarti, stai digerendo il panino appena mangiato. No. Puoi ruttare anche in diretta, è concesso, cioè, è scritto sul contratto. No, era più un'esitazione. Ti vedo emozionato oggi, è come se fosse la prima volta. Puntata, sì. Cioè, Prog 5 quarti dovresti essere... No, perché non mi sono preparato molto a livello teorico su il Matching Mall. Però, che dire, la fondazione di questo gruppo, dicevo, con Robert Wyatt, che invita all'interno del gruppo Dave Sinclair dei Caravan, che vi abbiamo presentato nella prima puntata dedicata al prog inglese. E da questo connubio appunto nascono i Matching Mall, con il primo album del 1972, album eponimo se non sbaglio, sì. Quindi Matching Mall. E che tra l'altro sì, nello stesso anno sono usciti questi due album che andremo, ecco, perdonami, prego, come si dice, integro, sì, integro. Sì. Che gli album che andremo a presentare sono dell'aprile del 72 e dell'estate del 72. Sì. Molto, cioè una vita breve, ma anche la loro molto prolifica, no? Quindi dal primo album eponimo andiamo a presentare un unico brano che si chiama Nan Through, no, quello del secondo, Instant Kitten dell'album appunto eponimo del 1972. E che dici, lo mettiamo l'altro brano subito dopo? Andiamo a presentare il secondo album, che si chiama Little Red Record. Ah, così lo mixo? Sì? Sì. Ah, va bene. E visto che sono solo due brani, e Little Red Record praticamente si rifà teoricamente a, diciamo, come omaggio al libretto rosso di Mao Zedong. E sia come testi che anche la copertina dell'album ha questa estetica un po'... Facciamo partire il coro? Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. E infatti Robert Wyatt dopo infatti aderì al Partito Comunista di Gran Bretagna negli anni '80. Comunque, interessante del secondo album, che oltre appunto al precedente membro dei Caravan, Sinclair, viene impreziosito dalla collaborazione di Brian Eno e di Robert Fripp. Sì, posso anche integrare con che sono andato a vedere la copertina di questo album, che, come ripetiamo, si chiama Little Red Record, che praticamente sono disegnati loro e i componenti del gruppo in, diciamo così, versione guerriglieri, versione rivoluzionari. C'è Wyatt con il baschetto rosso, cioè con il baschetto nero con la stella rossa, ricorda anche un po' lontanamente i murale tipo di Diego Rivera, no? Un po' questi graffiti politici. Sì, è sempre un po' difficile descrivervi le copertine degli album. No, questa è la lettura mia. Potete scriverci in diretta dove per dire se stiamo sparando. Sulla cazzate. Nostra posta wombat @insiberia.net oppure su twitter.com/radiowombatfi. E ci trovate anche su Facebook con Radio Wombat Firenze. A sto punto diciamo pure il sito, così chiudiamo. Nostro sito wombat.noblogs.org. Ok, a sto punto io passerei alla musica. Io quindi. sì, un po' di chiacchiere l'abbiamo fatte e ora passerei alla musica con i Matching Mall. Uh-oh. take off your trousers. Take off my trousers, yes. Questo era un assaggio dei Matching Mall, la loro vita breve è dovuta anche al fatto che nel 1972, visto anche l'abuso di alcol di Robert Wyatt, il gruppo si scioglie. E nello stesso periodo capita un grave incidente a Robert Wyatt, che praticamente cade dalla finestra del terzo piano e rimane paralizzato dalla vita in giù. E questa purtroppo è stata la fine anche dei Matching Mall, che abbiamo ascoltato il secondo brano da Little Red Record, Nan Truth Hall. Sempre del 1972. E con questo abbiamo chiuso con i Matching Mall e passo la parola a Prog One. Eccomi. Allora, stavamo proprio, facendo un'improvvisata riunione tecnica con Prog 5 quarti e io ho deciso che sì, metterò A Whiter Shade of Pale come sottofondo per raccontare un po' i Procolarum, perché il prossimo gruppo che andiamo a presentare sono proprio loro, sono i Procolarum. Gli originali, e questa è Whiter Shade of Pale, che la metto come sottofondo, vi lascio sognare mentre io narro, faccio il narratore. E ok, allora i Procolarum, fantastico, proprio 5 quarti, no? Ora c'hai 3 minuti e 54 per... Ci autoemozioniamo. Non so se siamo patetici o siamo belli. Vabbè. Allora, dunque, nulla. I Procolarum cominciano nel 62 escono col nome di Paramounts. E cominciano la loro carriera con... affacciandosi su quella che era la scena beat inglese, ed incidono il loro primo 45 giri con la EMI nel 1963. Proprio 5 quarti, e ti sei emozionato con Whiter Shade of Pale? Sì, mi stavo asciugando le lacrime. No, visto che sei partito così... Pensavo fosse solo mia madre che si emozionava a distanza di 40 anni questo pezzo, vabbè, forse pure 50. Vabbè, dunque, dicevamo... E qui che cominciano a incidere i loro primi 45 giri con la EMI nel 63, e fino al 65 pubblicheranno 6 singoli, e nel 66 il gruppo si scioglie. Poi il tastierista Larry Brooker, che è stato un po' una delle figure chiave e storiche del gruppo, nel 67 decidono di riformare il gruppo ed escono proprio con debuttano con questo loro singolo più conosciuto, appunto, che state ascoltando ora, Whiter Shade of Pale, che arriva fino in Italia che lo ascoltò Mogol, e la versione italiana senza luce che avete ascoltato dalla sigla. Comunque erano le parole di Mogol cantata dai Dick Dick dal titolo Senza Luce. Nel 67 quindi esce l'album omonimo, e con delle un po' con sonorità psichedeliche. Infatti fino al 1970 il gruppo si evidenza per essere un gruppo rock psichedelico. E infatti andiamo a presentare, diciamo, abbiamo fatto un salto temporale che arriva al 70 con l'avvento del rock progressivo, e quindi loro un po' si lasciano travolgere da questa ondata, dalla famosa scena di Canterbury tanto menzionata. E quindi andiamo, diciamo, quello che secondo noi è più affine alla, più simile alla progressive, e questo comincia con questo quarto album che si chiama Home, e di cui andiamo ad ascoltare Whiskey Train, che l'ho già preparato, e non lo so, per i nostalgici volete che vi lascio ancora 38 secondi di Watershed of Pale? Andiamo, vai, lasciamolo ormai. Sì, perché... O fai uno dei tuoi grandi mix. Esatto, sì. Vai, Whiskey Train, Block Procolarum, dall'album Home del 1970. Questa era Whiskey Train dal quarto album del 1970, Home, e arriviamo al 1971 con Broken Barricades, e in cui in questo album c'è anche una traccia dedicata a Jimi Hendrix, che si chiama Song for the Dreamer, che non suoneremo. però era così, era una curiosità, andava detta questa, andava, sì, era doveroso. E invece di quest'album, come ripetiamo, Broken Barricades del 71, andiamo ad ascoltare Simple Sister. Andiamo avanti con i Procolarum ed arriviamo al 1973 con il loro sesto album, Grand Hotel, che la critica definisce uno dei migliori lavori del gruppo. E diciamo, poi dal 73 fino al 77 seguiranno altri quattro album che non andremo a presentare, che in qualche modo cominciano, diciamo, questi quattro album delineano un po' il, come dire, il declino della band. Infatti nel 77, senza alcuna dichiarazione pubblica, il gruppo si scioglie e si riunificano poi negli anni 90 con l'ultimo album uscito nel 2003, che si chiama The Wells on Fire, che ha riscontrato un discreto successo da parte di pubblico e critica. E dal sesto album, come abbiamo detto prima, del 73, Grand Hotel, andiamo a presentare Bringing Home the Bacon, sempre qui su Radio Wombat. Ok, con Bringing Home the Bacon dei Procolarum dall'album Grand Hotel, chiudiamo la presentazione dei Procolarum. Vogliamo dare subito gli eventi della settimana o li diciamo dopo? Prog 5. No, no, andiamo con gli eventi della settimana. Però ci vuole il jingle. Il jingle. L'agenda della settimana. Ok, allora lascio sì. o rimetto Water Shadow Pale. No, lascia questo. Vorrei per gli eventi della settimana. Ok, allora il primo evento, andiamo in ordine cronologico, no? Sì. Il primo evento della settimana è 15 marzo, quindi domani, mercoledì, e c'è allo spazio La Polveriera, e c'è Apericipa, secondo credo, sì, featuring Daretta, G-Killa, Tony Manero e Much More. Poi ancora arriviamo fino a una settimana ricca questa, sì, vero? Sono un sacco proprio, di appuntamenti. E poi arriviamo fino a, dicevamo prima, fino a venerdì, vero? Venerdì 17 marzo, interessante. Sì, suona, sì. Al Next Emerson in via di Bellagio. Una serata organizzata dal collettivo Nuovi Rumori con Bologna Violenta, Contatto, The Majors e i Plankton. Una serata punk hardcore al Next Emerson, ripeto, in via di Bellagio. Poi sabato doppio appuntamento, doppio evento che possiamo presentare una a testa. Sì. Diciamo allora. Allora io presento quello, il primo. Vai. E al CPA Firenze Sud, sabato 18 marzo dalle ore 22, i Matrioska Ivanoska live. Dove? Al CPA. Ok. Firenze Sud, in via di Villa Magna. Mentre sempre al CSA Next Emerson ci sarà The Sound, Two Sound System in One Dance, quindi lo dico anche in patua, in versione giamaicana, e ci saranno, non li vado a cercare, no, se ridi a microfono proprio 5 terzi, no? No, era così, sorridevo. Ci saranno, allora, Roots Militant Hi-Fi, Dubwise Connection. Ricordiamo sempre a sabato 18 al CSA Next Emerson. Ok, perfetto. Ci siamo dimenticati al K100 questo fine settimana, non ci viene segnalato niente. Non ci viene segnalato nulla. Vabbè, no, se volete segnalarci i vostri eventi, i vostri concerti, le vostre iniziative, potete scrivere ovviamente su postawombat@insiberia.net. Ma pure per segnalarci, che ne so, lavori in corso. Sì, semafori lampeggianti, cantieri della tranvia. Rischio caduta ponti, che ne so, alberi, insomma. Pioggia, vento. Sì, sì. Benissimo, allora il prossimo gruppo sta a Prog 5 quarti presentarlo, sicché lascio a lui gli onori di casa. Allora, il prossimo gruppo sono i Renaissance, o come dice Prog 1, Renaissance più in francese, che comunque sono il Rinascimento. E dunque sono un gruppo che si formano, pensate un po', dalle ceneri degli Yardbirds, gruppo inglese famosissimo, però si caratterizzano subito con avendo delle palesi influenze, hanno delle palesi citazioni, continue citazioni dalla musica classica. E vi cito alcuni dei nomi, diciamo, più importanti, tipo Bach, Chopin, Albinoni, Debussy, Rachmaninoff, Rimsky-Korsakov, che non conosco sinceramente, Prokofiev e Ravel. Come hai fatto a imparare tutti questi nomi a memoria proprio 5 anni? Perché me li sono ricordati in ordine non alfabetico. B, C, A, D, R, R, B, Q, R. E si quindi ripete pure la R. Si sì, sì. R, K, P, R. E soprattutto Rimsky-Korsakov ce l'ho, lo porto sempre con me. Comunque, dei Renaissance, andiamo, Renaissance, comunque Rinascimento, e andiamo a presentare due album. Il primo album del 1972, Prologue, che è il terzo album, che diciamo è quello con caratteristiche più, più prog. E da questo disco in poi fino a Sherazade, e diciamo la caratteristica principale è appunto quello che ho detto, delle continue citazioni, continui riferimenti alla musica classica. E quindi da Prologue andiamo a presentare Kiev, che era anche un pezzo, un brano tratto comunque dal brano del famoso, come dicevo prima, Roma, non mi ricordo, no, comunque uno l'avevo imparato alla memoria nel momento in cui li hai pronunciati. Sì, però Rimsky-Korsakov, il brano omonimo Kiev dei Renaissance, e ce lo andiamo ad ascoltare tosto. This man's E questo era Kiev dei Renaissance con, come avrete sentito, la musica, la linea del pianoforte, che era comunque, ricordava molto la musica, quello che la musica classica, no? Si usciva un po' dall'ambito rock e si avvertiva, comunque anche per i meno esperti come me tra l'altro, si sentiva la mano di Rimsky-Korsakov. E un altro album, l'ultimo che vi presentiamo, che è uno dell'album, diciamo, più ambizioso, non forse il più riuscito, ma è Sherazade and Other Stories, e dove è presente nella seconda facciata una suite di 24 minuti che non suoneremo paura, che è una... In che anno è uscito, però, se me lo dici in inglese così integriamo? Nel... non mi ricordo, guarda, se non l'avrei detto, nel 1975. In inglese? Ah, 1975. Grazie. E questa appunto è la rielaborazione di Sherazade di, indovinate un po', Rimsky-Korsakov. E comunque viene il pezzo di apertura della prima facciata, Trip to the Fair, viene considerato il capolavoro dell'album, ma siccome era troppo scontato, noi non ve lo facciamo sentire e vi facciamo sentire The Vultures Fly High dei Renaissance, e con questo concludiamo questo breve capitolo sul Rinascimento, sempre su Radio Wombat. They reign supreme as orders go. They are the last to have their say. And last to know, it doesn't matter how you try. It doesn't matter what you say. They always watch with hollow eyes. To put you down, they always find a way. To criticize, the vultures fly high. They circle over. Ok, allora chiudiamo con il Renaissance, e, anzi siate contenti e ritenetevi fortunati che non vi abbiamo sparato la lunga suite come l'ha giustamente presentata prima, proprio 5 quarti di 24 minuti presente nell'album. Ok, allora il prossimo gruppo che andiamo a presentare si chiamano Titus Groan, che è un gruppo che si è formato nel 1970 e è subito scioltosi nel 1971. E questo gruppo ha pubblicato un solo album, chiaramente eponimo, ma quello ormai è quasi scontato, che è uscito nel 70 con la Down Records, e il nome di questo gruppo è stato preso da una trilogia di romanzi ascrivibile al genere fantasy dello scrittore illustratore inglese Mervyn Lawrence Peak. Ma non stai leggendo, vero? Assolutamente no. No, anche, no, mi sembrava. Anche perché non so leggere, sono no, tutte infatti. Ricerche vocali che ho memorizzato. E mi sono messo un chip sotto pelle. E sempre nel 70. sempre nel 70 esce anche un maxi single su 7 pollici, ossia 3 tracce invece che 2, il classico 7 pollici. E come era a piramide? C'aveva 3 lati questo album? No, no, un 7 pollici piramidale, dici? Come... No, su un lato... Due brani, due lati, tre brani, tre lati, no? Non allora, era così. Allora c'era la track Ghost Track. Era già la Ghost Track, la famosa. No, vabbè, Ghost Track. Scusa, era solo così, una curiosità mia. Stai facendo il secondo intervento per mettermi in difficoltà. No, no, era così. Per sdrammatizzare. Che mi hai visto che andava a tutto fuoco e ti sei ingelosito come sempre. Ora mi hai fatto perdere pure. No, appunto, stavi dicendo di questo, sì, certo, 7 pollici. Del maxi singolo su 7 pollici che esce sempre, quindi di 3 tracce invece che 2. La forma la scopriremo dopo. E sempre per la Down Records. E questo album è abbastanza anche ricercato dai collezionisti, perché è molto raro riuscire a trovare la stampa originale. Poi nel tempo, negli anni, delle ristampe sono uscite, ma comunque è un album molto raro, ecco. E quest'album contiene 5 tracce, di cui una suite che vi andremo a presentare. No, non è vero. Facciamo un po' tremare, no, tutti i nostri ascoltatori. E contiene una suite di circa 12 minuti che si trova come seconda traccia sul lato A del disco, mentre di questo non vi risparmieremo chiaramente la suite, anche perché comunque nelle precedenti puntate ne abbiamo presentate parecchie, orgogliosamente anche, voglio dire, cioè rivendichiamo il fatto di aver presentato un sacco di suite, tra l'altro. Secondo anche autoprodotte. È la trasmissione radiofonica con più suite del mondo. Esatto, quindi c'è, cioè, le suite ufficiali, quelle proprio da album, e più le suite autoprodotte da noi, che abbiamo mixate da noi, egregiamente mixate da noi. Ok, e da questo album andiamo a presentare It Can Change e Fuschia, si chiama Fuschia, ora non so come si pronuncia. Forse non lo sapevano nemmeno loro, non sapevano nemmeno come si scrivesse, forse. Comunque è scritto Fuschia, sì. E, che mixeremo, quindi sarà una mini suite autoprodotta, risparmiandovi quella ufficiale. E loro sono i Titus Groan. The devil that way I'm blind.

allora bene bene, abbiamo presentato i Titus Groan con loro, il loro unico album omonimo, e giusto qualche curiosità in più anche per essere, per dare un certo tono di serietà a noi in quanto prog addict, che quest'album c'ha una quotazione dalle 100 alle 500 euro, quindi abbastanza, come ho detto prima, un album abbastanza raro. E poi ho scoperto che nel 2016 è uscita una ristampa irlandese per la Rabbit Hole Records di questo album. E vogliamo vedere anche, sì, già che ci siamo in diretta, vediamo anche un po' le quotazioni del tanto discusso maxi single. Sì, vediamo. Vediamo un po', in diretta, che si chiama Open the Door Homer, uscito sempre, ricordiamolo ancora, nel 70, sempre per la sempre per la Down Records. E questo che poi è stato ristampato solo nel 71 in Giappone, e sì, in quotazione non eccessivamente alte, fino ai 35 euro più o meno, ma aspettavo peggio sinceramente. Sì. Comunque i giapponesi sono stati negli anni molto sensibili al prog, sia italiano che inglese, sì, no? Soprattutto quello italiano, anche quello italiano. In Giappone è stata stampata un sacco di roba, di ristampata, ma in quegli italiani. Anni o anche negli anni successivi? Sia in quegli anni che negli anni successivi, sì, anche sono... ora? Sì, anche per dire il rovescio della medaglia, o The Other Side of the Coin, che dir si voglia, e hanno tenuto anche dei concerti in Giappone abbastanza affollati, quindi la progressive in Giappone va molto. Ancora va? Ancora va, sì. Bene, quindi no, noi avevamo anche già detto di trasferirsi in Giappone per una tournée radio. A compagni giapponesi se ci ospitavano a fare una trasmissione radio. Arigato. Bene, e diciamo siamo alla conclusione, quasi alla conclusione di questa puntata. A questo punto lo possiamo dire, la penultima puntata, sì. Perché la prossima sarà l'ultima puntata del rovescio della medaglia. Sì, è vero. La cremuccia, però comunque dai, i sentimentalismi li rimandiamo a martedì prossimo. I sentimentalismi mettiamoli, non hanno mai portato nessun frutto. No, infatti. Solo che ne so... Dava solo ampio spazio ai sogni, alle passeggiate al mare d'inverno con le White Shadow Pale. Quindi vabbè, faremo noi un videoclip che Prog 1 e Prog 5 quarti che si danno la mano sulla spiaggia al tramonto d'inverno. Spettacolo. Con i Procolarum in sottofondo. E andrei sulle spiagge bianche di Rosignano. Sì. con le ciminiere, insomma, bellissimo, delle immagini eccezionali. Comunque andiamo avanti. L'ultimo gruppo della serata sono i Traktor, altro gruppo ovviamente inglese, che nascono, come molti gruppi della progressive inglese e non, da un altro gruppo beat che si chiamavano The Way We Live. The Way We Live? No. No, perché comunque il beat ancora il beat non, no, ti è mai interessato. No, non proprio. Comunque era del 66. Comunque hanno stampato un album con questa formazione, e che è stato A Candle for Judith, e viene ristampato nel 94 in versione CD. Con la nuova formazione Traktor, nel 1972 esce il loro primo album, ovviamente eponimo, per la Dandelion Records. Per la? Dandelion. Gli è appena scoperto, è appena scoperto, no, scoperto no, diamoti i giusti meriti. No, avevo mi dei dubbi sulla pronuncia. Mi acutamente che... Il Dandelion è il fiore del tarassaco. E infatti stavo guarda si chiama proprio anche... sul, ah, vedi? Sull'LP, sull'LP nel l'icona della Dandelion c'è appunto il tarassaco con il suo classico fiore giallo. Perché viene anche detto dente di leone, e un po' richiama comunque un'assonanza tra Dandelion e dente di leone, penso sia una cosa del genere. E i dandy? Comunque, no. Non c'entra, non c'entra niente. Comunque loro hanno fatto un unico album, poi sono dedicati a promuovere e ad aprire una casa discografica per promuovere quindi tutti i gruppi, i vari gruppi piccoli gruppi inglesi di quel periodo, che si chiamava la Cargo Records. Non contenti di questo, qualche anno dopo, poco anno dopo, che hanno fatto? Hanno preso proprio tutto quello che riguarda la musica, quindi da suonare, dalla produzione di album, hanno aperto un negozio di dischi nella stessa via dove era anche la sala di registrazione, dove era il loro studio, che ha avuto anche molto successo perché comunque veniva frequentato anche da nomi illustri della musica del rock di quel periodo, anche da DJ. Anche da DJ successivamente. Anche da DJ, infatti, vedi, dal famoso John Peel. Ricordiamolo, che integro sempre io, il famoso John Peel era uno dei DJ più famosi, credo che era per la BBC Radio, credo, che diciamo è stato un po' anche l'anello di congiunzione col punk e il reggae, perché lui era passava all'epoca, negli anni 70, passava tanto punk e tanto reggae. Infatti poi, tra l'altro, anche diversi gruppi reggae, soprattutto della scena inglese, gli diedero il loro contributo / tributo musicale. Ad esempio c'erano questo gruppo, i Mystin Roots, che fecero un album, The John Peel Session, e quindi era una figura abbastanza importante a livello musicale in Inghilterra, e lui è morto, se non sbaglio, nel 2004 in Perù, ebbe un attacco cardiaco in Perù nel 2004 o 2006, però sono quasi sicuro il 2004. Bene. Piccola noticina, mi è tornata in mente un inserto ora. Veramente tornato in mente ora, così bene, al volo. Perfetto. Comunque, l'unico album dei Traktor, appunto dall'album Traktor, vi presentiamo un unico brano che sarà quello di chiusura, che si chiama Make the Journey. E con questo vi salutiamo. Volendo potremmo dire pure altro, su. Che hanno continuato a produrre dei dischi fino al 2012? diciamo una biografia a 360 gradi. Poi diciamola tutta, Prog 3, Prog 5 quarti, via. Cioè, e ci siamo accorti che era un po' corta la puntata. Sì, non è quindi... che abbiamo mandato i pezzi a velocità doppia, perché in genere stiamo qui fino alle 9, 9 e un quarto. In genere pecchiamo di prolissità. Siamo prolissi, siamo proglissi. Generalmente siamo proglissi. Ennesimo neologismo del rovescio della medaglia. Comunque, fino al 2012 hanno prodotto, poi che è successo? Avranno smesso di produrre album e andranno avanti col negozio di dischi? Sì, perché appunto perché è diventato anche una sorta di luogo simbolo, appunto, come dicevi te prima. Di lì sì, una specie di salotto culturale. Esatto. un po' come la trasmissione del rovescio della medaglia, sì, sì. Chiaramente voi non vedete, ma da qui passano un sacco di nomi illustri. È tu, un andirivieni di nomi illustri. No, comunque... Cioè, noi siamo microfonati tipo le ragazze di Non è la Rai, con i microfoni attaccati a quelli, sì, così, sì. Per non far sentire i rumori esterni del via vai di nomi illustri che frequentano, sì, la, sì, regia. Tutto uno scambio culturale di saperi, conoscenze, una fucina. Perché noi quando si manda la musica parte proprio il dibattito, più dibattito, parla di tutto. Sì. Sì, dalla musica classica, alla filosofia, passando per la pittura, la scultura. Sì, mischiato alla cucina, Masterchef che prepara le sue pietanze con gli Osanna, di tutto. Cocktail, degustazione vini. Non ci facciamo mancare nulla, niente, via. Niente. D'altronde è un luogo simbolo e è giusto che sia rispettato e valorizzato. Bene, allora andiamo con questo ultimo brano. Sì, abbiamo, sì, detto tutto dei Traktor. Sì. E no, tutto no, però comunque... Sì, anche perché è stato molto molto difficile reperire informazioni. È vero. Siamo dovuti proprio andare, siamo scesi in strada per cercare informazioni sui Traktor. Siamo andati in quella strada. Nella famosa strada dove era il negozio di dischi, il loro studio di registrazione. Che te immagino conosci. Sì, sì. Il nome della via? Westbourne Street. Westbourne Street. Comunque, a risentirci la settimana prossima, martedì, sempre alle 19, qui su Radio Wombat, il rovescio della medaglia. The Other Side of the Coin. E vogliamo dare anche qualche anticipazione della prossima puntata? Ah, o no? Sì, diamo. La prossima puntata, siamo arrivati in fondo all'alfabeto inglese. Sì. Partiamo con three bands. Solo three bands. Only three bands. E saranno i Van der Graaf Generator. Ce la possiamo fare. Gli Yes. And prima. And the Uriah Heep. Uriah Heep. E che ci sarà anche una chicchettina. Una sorpresina tipo i Dick Dick di oggi, e abbiamo un'altra sigla della prossima puntata, e c'è un'altra chicchettina, una cover ma italica, Italian version italica dei... cover di un pezzo, no, non credo conosciuto, però di un pezzo degli Uriah Heep. Comunque, ora vi mettiamo questa pulce nell'orecchio e vi aspettiamo martedì prossimo. Volendo potremmo anche lanciare un concorso al volo a chi indovina il pezzo della prossima sigla, cioè chi indovina il pezzo della prossima sigla dell'ultima puntata. Dovete scoprire quale pezzo è dell'Uriah Heep e la versione italiana, il titolo e il cantante. Magari qualcuno, uno dei tanti ascoltatori che ci sta ascoltando in questo momento, magari che ha... mi è scappato di dargli l'anteprima, chiaramente escluso a priori, da questo concorso, da questa gara. E il premio quale sarà? Il premio è ascoltare gratis l'ultima puntata del rovescio della medaglia, anche in podcast ovviamente. Ossia, vi pagheremo l'abbonamento internet e quindi per un giorno vi sarete rimborsati con i voucher, che non è un gruppo prog anni 70. oppure chi ci scrive a posto wombat@insiberia.net e indovina verrà ospitato a titolo completamente gratuito in trasmissione martedì prossimo. È vero, e quindi avrete anche la possibilità di esprimervi, di dire la vostra, microfono open mic, come si suol dire. Open Indovina mic. La prossima sigla del rovescio della medaglia. Ok, questo, allora dai, ora abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Sì, possiamo salutare tutti e grazie per averci ascoltato e ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora. E sempre allo stesso posto, ossia il teatro ereditato da Emerson, Lake & Palmer, sempre qui su Radio Wombat. Journey.